Stamattina io vorrei informarmi e non saprei dove mettere i soldini che hanno da parte i miei bambini. Come faccio, ah c'è Radio 24, un consiglio mi darà senza gran difficoltà. Sono bravi, sono belli, anche un poco pazzerelli, loro sono i nostri amori, due di denari. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno Deborah, buongiorno. Forse avrai riconosciuto questo gruppo musicale un pochino sui generis, io credo. Assolutamente sì, mi mancavano anche un po' per la verità, perché era da un po' che non proponevamo le loro hit. Eh sì, abbiamo cominciato con i Chapter 11 con uno splendido conflitto di interessi o interesse privato da parte mia in questioni pubbliche, vabbè. Ma perché c'è un motivo, giusto oggi? Sì, allora, a parte il fatto che finto rogito in questo periodo non se ne possono fare né finti né veri, e questo già è un indizio per suggerire agli ascoltatori il grande tema che affronteremo a Due di Denari quest'oggi, perché è un po' complicata la vita dei notai in queste settimane, per i notai distribuiti nelle varie zone d'Italia colorate di varie tinte. E quindi abbiamo delle così diverse perplessità che sono già state rappresentate anche nella trasmissione della settimana scorsa dedicata agli spostamenti per quanto riguarda proprio gli atti che si devono fare o che si era programmato di fare. Allora, che si può o non si può fare? Dobbiamo andare a chiedercelo di volta in volta. Potremo farlo con l'ausilio appunto di un notaio che sarà collegato con noi, un notaio di valore mondiale e un esperto di valore mondiale come sempre. Se volete, i numeri di telefono sono quelli abituali. Vuoi ricordarli tu, Deborah? Assolutamente sì, 800 24 00 24, numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta. In alternativa potete utilizzare il 349 238 6666 per inviarci i vostri sms, ma anche i vostri messaggi su WhatsApp, scritti, ma anche vocali. Però ci sono anche altre notizie che movimentano il mondo dei notai questa mattina, vedo. Esattamente, ma è stato quello il motivo che ci ha portato a utilizzare questa canzone così di questo grande gruppo musicale dei Chapter 11, perché abbiamo addirittura due notizie che l'ottimo Marco Lombardo, come sempre onnipresente in regia questa mattina insieme a Gianmarco Ferronato, ha scovato. Da una parte un guttuso nella eredità di un notaio, un guttuso venduto a 10.000 euro per un che è stato, si era aggiudicato un professore universitario romano che l'ha spuntata dopo una serie di rialzi con picco finale in asta online. Era un lascito che veniva da un notaio di Pieve di Soligo, mancato qualche anno fa, però i figli, gli eredi non si sono messi d'accordo e quindi si è dovuto ricorrere a un liquidatore per gestire la pratica e così assegnare in asta un guttuso che derivava proprio dall'eredità del notaio solighese. Prego, scusa Deborah. Mauro, posso fare una battuta? No, mi viene veramente da dire che qua potrebbe nascere il colmo. Qual è il colmo per un notaio? Che i suoi eredi non si mettano d'accordo, mi sembra. Forse non aveva un'ironia. Fatto testamento. Ma vabbè, incredibile. Però, vabbè, no, l'altra notizia che invece sì, dimmi. No, perché l'altra notizia era più interessante ancora di questi tempi, perché infatti mi fa un po' pensare a quella storia dell'odontotecnico che si era finto dentista, no? Esattamente, e con questo naturalmente non vogliamo scatenare l'abituale indignazione di coloro che dicono no, ma gli odontotecnici possono fare delle cose, nessuno lo vuole negare, non possono fare i dentisti, almeno fino a nuovo ordine. Qual era qui questa notizia che volevi assolutamente ricordare, Deborah? Prego. è che nell'Aquilano, a Campotosto, abbiamo scoperto che c'era un geometra che si fingeva notaio e sfruttava le sue abilità informatiche per falsificare atti sulla ricostruzione di alcuni immobili di questa zona. Ora, naturalmente, finito agli arresti domiciliari, il giovane professionista era riuscito a trarre in inganno i committenti falsificando atti notarili, misure catastali, verbali di perizie extragiudiziali, arrivando persino, senti questa, a spacciarsi per un notaio con tanto di indirizzo email, naturalmente anch'esso falso. Ma veramente, qua io non capisco come in questi periodi così difficili c'è qualcuno che riesca ad ingegnarsi, addirittura, come dire, millantando delle qualifiche professionali che non si hanno. Quindi sono sempre molto colpita da questi tentativi truffaldini che poi alla fine riescono anche ad andare bene per lunghi periodi, come in questo caso. È proprio bene. Così. Allora, vogliamo passare invece non a un professionista per finta, ma a un professionista vero per il nostro abituale appuntamento del lunedì, cioè Meteo Borsa? Sono pronta. Meteo Borsa. Guarda Mauro, intanto ti dico che la settimana parte ancora una volta molto bene per i mercati finanziari, ormai ne stiamo raccontando di notizie positive da giorni, anche se per la verità siamo in certi momenti anche un pochino scettici rispetto a questo rally dei mercati che è scatenato chiaramente dalle scoperte sul vaccino contro il Covid, però è anche vero che il sottostante economico è quello che è, per cui ci interroghiamo sulla sostenibilità di questo rally. Comunque anche stamattina è partita bene la seduta: Francoforte più 0,94, Londra più 0,32, Parigi più 0,74% e Milano più 0,86%. A Milano c'è già il caso del giorno, che è il risico bancario con l'offerta lanciata inaspettatamente dal Crédit Agricole sul Creval, il credito valtellinese. Ma direi di fare un esame un pochino più puntuale e dettagliato e articolato con il nostro analista finanziario di questa mattina, che è Davide Biocchi, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, dicevamo, sentiment positivo, si punta tutto sul vaccino? Beh sì, diciamo che le borse sono abituate a guardare avanti e quindi l'arrivo di questo vaccino, poi dopo il primo l'annuncio del secondo, poi quello russo e poi oggi quello di AstraZeneca, praticamente fanno fare ai mercati questo salto del fosso. I mercati guardano già avanti, guardano in prospettiva e quindi pensano a un'economia che ritorni a una, mettiamolo tra virgolette, normalità, e quindi tornano a puntare su quei titoli che erano un po' rimasti al palo. E siccome l'Italia nel suo listino ne ha parecchi, abbiamo visto che cosa è successo nelle ultime tre settimane sulla borsa italiana stessa. Mauro, avevi delle curiosità? Peraltro, a parte i temi della settimana, devo dire che qualche operatore ha già detto che inizia il countdown, visto che si guarda sempre avanti ai fatti delle prossime giornate, il countdown per il meeting della Banca Centrale Europea di dicembre, nel corso del quale probabilmente verranno annunciate altre misure di sostegno all'economia. Rimoduleremo, ricalibreremo i nostri strumenti, aveva detto Christine Lagarde la settimana scorsa. Mauro. E sì, infatti, uno spunto potrebbe proprio essere questo, perché abbiamo così visto tutti con un po' di preoccupazione le opposizioni di alcuni paesi, Ungheria e Polonia, al piano di interventi da parte della Commissione Europea, però l'impegno della Banca Centrale sembra tranquillizzare i mercati, e comunque forse i mercati non credono che non ci sarà un intervento tempestivo. Biocchi. Beh, diciamo che questo, come posso dire, questo veto posto per ora da Ungheria e Polonia crea una situazione un po' di impasse, di cui per ora la borsa, ma in generale direi anche l'informazione, si è occupata poco, nel senso che può creare un impasse decisamente più ampia. Il contesto è: senza questa approvazione del bilancio non può essere stanziato il recovery fund. Esiste una pratica che può bypassare questo, ma che prevede tanto tempo, da 7 a 9 mesi, si dice. Evidentemente noi tutto questo tempo da aspettare, o meglio, più che noi, diciamo, le nostre economie reali un po' sfittiche non ce l'abbiamo, quindi bisogna che si trovi un problema per uscire dall'impasse. La BCE, la banca centrale, in questo momento rappresenta l'ente rassicurante, stiamo a vedere cosa dice. Ma riguardo a prima, si parlava del risico bancario, Deborah diceva questo, e devo dire che il mercato ci crede addirittura così tanto che il prezzo del credito valtellinese in borsa va sopra il valore dell'offerta. È stata sorpresa, ma il mercato dice: ah, ma così è troppo poco, andiamo un po' più su, vediamo se, esattamente memore di quello che successe tra Intesa e UBI, mette subito in chiaro che forse ci vuole un po' di più, che forse ci vuole un rilancio, e lo mostra. E poi l'idea è, in questo contesto del risico bancario, la lepre, diciamo, la predata di prima, che doveva essere la Popolare Milano, di cui si era tanto parlato come ipotesi per Crédit Agricole, ora con chi va sposa? Se guardo il mercato di oggi e vedo quanto si muove anche la Popolare Emilia, mi viene da pensare che sono questi gli attori che rimangono, ma questo risico bancario, come dicevo, promette di dire ancora qualcosa, anche perché non bisogna dimenticarsi della chiacchiera che si fa oramai da tempo riguardo Unicredit e Monte Paschi. Su Monte dei Paschi. Allora, tra l'altro, per dare un'indicazione delle quotazioni in questo momento delle società e delle banche citate, Biperbanca più 2,12%, Creval fa più 23%, il credito valtellinese appunto spostandosi sopra i livelli di prezzo proposti dal Crédit Agricole per l'offerta pubblica di scambio. Ricordo un ultimo dato di cronaca di questa giornata, che 4 aziende staccano un acconto di dividendo, sono Poste, Recordati, Terna e Tenaris. Quindi dobbiamo considerare che sulla prestazione complessiva dell'indice italiano c'è anche questo 0,09%, che è il valore appunto attribuito al peso dello stacco del dividendo. Gli altri temi della settimana, un ultimo minuto, Davide Biocchi, quali sono, quali saranno i temi da osservare nei prossimi giorni? Beh, senz'altro ci sono le minute della Fed, no? Diciamo che ci diranno un po' meglio lo stato di salute degli Stati Uniti, ma soprattutto ci sarà il Thanksgiving e il Black Friday, una combinata che quest'anno sarà particolare. Spesso il Black Friday, col suo andamento, diciamo, racconta della propensione alla spesa, è un vero e proprio exit poll, dice come si comportano gli americani, non perché c'è un'indagine, ma perché li misuri col denaro reale. E allora, alla base di questo, c'è che, siccome poi con quel denaro reale che circola i benefici vanno alle aziende, il cosiddetto rally di Natale di borsa a volte dipende anche un po' da come va questo Black Friday. Stiamo a vedere, quest'anno sarà certamente in misura ridotta, molto più con le consegne a casa, molto più stay at home, come dicono negli Stati Uniti, ma di fatto questa è una settimana che per la borsa si chiude mercoledì, se ne riparla poi la settimana successiva. Molto bene. Molto bene, anche perché questa ultima citazione del Black Friday da parte dell'analista finanziario, esatto, Davide Biocchi, ci porta dritti dritti alla prima notizia del nostro giornale radio del risparmio. Amore, i soldi. Perché la nostra prima notizia è proprio quella che potete vedere anche su molti giornali oggi, ed è che per il momento tramonta l'ipotesi di rinviare il Black Friday, quindi le offerte speciali in programma 27 novembre e 4 dicembre. Ieri c'è stato un confronto tra il governo e le associazioni commerciali, però non ci sarebbero al momento le condizioni per spostare in avanti questa data. I ministeri dell'economia e quello dello sviluppo economico hanno fatto un sondaggio informale con le associazioni dei commercianti e con quelle della grande distribuzione, però non si è trovata una posizione unitaria. E allora le associazioni di categoria peraltro sottolineano che a questo punto, più che un rinvio, sarebbe importante avere norme per competere ad armi pari, e qui il riferimento va naturalmente ai giganti del web, alle web company, che possono muoversi evidentemente con una maggiore libertà, sappiamo spesso anche una maggiore libertà fiscale. Prego Deborah. Allora, andiamo ad un'altra notizia che è stata diffusa proprio questa mattina. Sono le consuete notizie che fanno indispettire molti, e però sono, come dire, delle fotografie che noi dobbiamo raccontare, perché questa è una classe sociale che attorno a noi c'è, e per fortuna che c'è, perché spende, consuma naturalmente, quindi è anche importante ai fini del recupero economico del nostro paese. Parliamo della classe dei benestanti, che in Italia sono 1,5 milioni e detengono un patrimonio finanziario complessivo di 1.150 miliardi di euro. euro, che è aumentato di oltre il 5% negli ultimi 2 anni, una cifra pari a 3/4 del PIL del paese atteso nel 2020. Questa fotografia della classe agiata, gli italiani con un patrimonio finanziario superiore a 500.000 euro, valore medio 760.000 euro, scaturisce dal terzo rapporto IPB Censis. L'IPB è l'Associazione Italiana Private Banking. Il titolo del rapporto è Investire nel futuro dell'Italia oltre il Covid-19 ed è stato un rapporto realizzato appunto per l'IPB dal Censis. Il 75% di questa fetta di popolazione, appunto, che definiamo agiata, si dice pronta a finanziare con il proprio capitale privato investimenti di lungo periodo per la rinascita economica dell'Italia dopo il Covid-19. Il 71% consiglierebbe a parenti e amici di investire in aziende italiane, solo il 18% teme l'introduzione di una tassa, qua dobbiamo dire la parolaccia Mauro, patrimoniale. Il rapporto rileva inoltre come, persuadendo la classe agiata a tenere in forma liquida solo una quota fisiologica del proprio portafoglio pari al 7%, oggi è invece superiore al 15%, sarebbero immediatamente disponibili 100 miliardi di euro da investire nell'economia reale. Bisognerà vedere con quali strumenti. Ci siamo un po' abituati a queste idee in questi ultimi 2 o 3 anni con i PIR, che hanno avuto una fortuna, come dire, alterna anche per le modifiche legislative che sono state introdotte su questo strumento, ma insomma bisognerà vedere effettivamente come sarà proposta eventualmente un'idea di investimento sull'economia reale prossimamente, Mauro, però il dibattito è assolutamente caldo sulla argomento. Io cambio completamente registro perché voglio segnalare un sito. Sai che io ho un po' la passione per segnalare i siti. Il sito è Conviene Saperlo, è scritto tutto attaccato, convienesaperlo.it, perché questo è il sito che rappresenta la campagna lanciata dall'antitrust sui diritti dei consumatori, cioè fare in modo che tutti noi consumatori conosciamo meglio, conosciamo di più i nostri diritti. È una campagna che è stata curata insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e che si svilupperà appunto tramite questo sito convienesaperlo.it e poi con spot anche su radio e TV che verranno ripresi sui canali social dell'antitrust, quindi anche su Twitter, su Facebook, su YouTube, eccetera, e poi sul profilo Instagram. Un'attenzione particolare verrà data alla formazione dei giovani consumatori. È una iniziativa che naturalmente qui a Due di Denari non possiamo che salutare con favore. Prego Debora. Allora, un'altra notizia che volevamo segnalare è stata raccontata questa mattina dalle pagine del Sole 24 Ore, ma ci fa particolarmente piacere riportarla perché, per la verità, ci sono molte categorie professionali che in questo periodo si sono rese disponibili per dare un aiuto alle persone che sono in difficoltà. Io lo anticipo anche, magari ne parleremo più dettagliatamente in una prossima puntata di Due di Denari, che c'è anche la categoria dei consulenti finanziari che si è attivata con l'iniziativa Una Mano per Ripartire, e molti di loro, molti appartenenti alla categoria, si sono appunto dati disponibili per quelle persone che sono un pochino in difficoltà con la gestione del risparmio, non sanno bene a chi rivolgersi per avere una consulenza, e quindi questa è un'iniziativa di una categoria professionale. Quella che invece volevamo segnalare questa mattina, riportando quanto riportato dal Sole 24 Ore, riguarda il mondo degli avvocati. Il modello è stato quello del caffè sospeso, in uso a Napoli, ovvero la traduzione di lasciare al bar un caffè pagato per chi non può permetterselo. Per rispondere all'emergenza sanitaria, l'associazione Pro Bono Italia, in collaborazione con la sede milanese dello studio legale Herber Smith Free Hills, ha pensato di mettere a disposizione una guida gratuita e costantemente aggiornata sulla legislazione emanata per far fronte alla pandemia. La dovremo leggere pure noi, Mauro, per rifare un po' di ordine mentale su tutte le norme di cui abbiamo parlato in questi ultimi mesi. Un profluvio di norme, dice il Sole, un termine che a Mauro Meazza piace moltissimo, che tutti abbiamo almeno sommariamente imparato a conoscere, ma che necessita di una bussola nel momento in cui si deve Per esempio, chiedere un sostegno al reddito. La guida è come se fosse appunto un caffè sospeso e a disposizione di organizzazioni non governative e singoli cittadini che abbiano bisogno di districarsi nella normativa anti-Covid. Il sito a cui collegarsi per scaricarla è un po' lungo, non so se provare a dirlo, Mauro, probonitalia.gov.org/it/coronavirus-solidarity-legal-resource-center. Facciamo prima a metterlo sui social. Lo mettiamo sui nostri profili social, quindi sul Facebook. Voglio rilanciare questa opportunità di dileggiare un pochino questi importantissimi social network, quindi sul Facebook, sul Twitter, sull'Instagram e così via. A proposito di questioni digitali, lo speed, avrai visto senz'altro, cara Deborah, oggi Antonello Cherchi sul Sole 24 Ore parla dello speed. Perché lo speed sta diffondendosi molto rapidamente. Noi ne abbiamo parlato già più volte, due di denari, in questa nuova stagione, da settembre, perché tra l'altro l'INPS ha detto non daremo più la password dispositiva, dovrete avere lo speed. I comuni via via si stanno adeguando allo speed. Poi ci sono le necessità di chiedere lo speed, di avere lo speed per accedere ai vari ristori, provvidenze, sostegni, eccetera. Insomma, più 134%, 13 milioni di identità digitali che sono state rilasciate complessivamente dai 9 identity provider, sono coloro che appunto assegnano lo speed a noi cittadini. Erano stati 5 milioni nel 2019. Però, come spiega Antonello Cherchi, ancora diciamo che l'utilizzo ha ampi margini di miglioramento, e voglio dirlo così con uno spirito di ottimismo, perché è comunque uno strumento che fatica a fare presa sui cittadini, viene utilizzato, segnala il collega sulle pagine del Sole 24 Ore di oggi, in modo un po' sporadico. Insomma, quando uno ha bisogno di una certa di un certo servizio alla pubblica amministrazione ci si collega, altrimenti tende a non utilizzarlo, magari anche con enti, con amministrazioni con le quali potrebbe utilizzarlo. Quindi bisognerebbe fare un ulteriore sforzo, magari anche da parte della PA, della pubblica amministrazione, delle sue varie articolazioni, per la diffusione e l'utilizzo di questa identità digitale unica. Allora, ricordo, Mauro, prima di andare ai mercati, nei quali tu mi lancerai come sempre, un ultimo appuntamento, quello di giovedì 26 novembre a partire dalle 15. Tutti gli ascoltatori potranno vederci anche live se vorranno collegarsi dal sito del Sole 24 Ore alla nostra iniziativa, alla nostra Digital Roundtable, una tavola rotonda digitale sui temi della previdenza complementare. Quindi è un'informazione di servizio che stiamo dando da giorni per ricordare a tutti questo appuntamento. Se volete avere un bel ABC sul tema del fondo pensione, chiuso, aperto, piano pensionistico, che scelta consapevole fare in termini di previdenza complementare, noi ci siamo giovedì pomeriggio, occasione per la quale Mauro io verrò per una mezza giornata anche negli studi delle Sole 24 Ore. Ma staremo sicuramente molto molto distanziati, cara Deborah, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 3 novembre. E adesso, pur da distanziata, potresti aggiornarci su le borse? Da Monterosa a Viale Sarca, con Rosciani e Meazza, in borsa si sbarca. Due di denari. Allora, torniamo con due di denari per parlare di atti notarili con un notaio esperto di valore mondiale, Arrigo Roveda, un ritorno qui a due di denari, già ospite altre volte qui da noi. Buongiorno, bentornato notaio Roveda. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie. Allora Deborah, a parte che ti devo dire che aver solo citato lo speed o la speed, come mi corregge un ascoltatore, quindi diciamo che sul genere di questo coso c'è ancora dibattito, aver solo citato questo ha già suscitato parecchie domande e richieste di chiarimenti, quindi mettiamo in agenda un'altra puntata. Ma oggi invece ci occupiamo di questioni relative agli atti che si fanno dal notaio, e anche qui stanno arrivando parecchie domande. Non so da quale vuoi cominciare, Deborah. Guarda, intanto cominciamo con il dire che È un momento molto complicato. Tra l'altro, ci stavo riflettendo prima di partire con diretta. Noi, quando parliamo di notai, immaginiamo che negli studi professionali dei notai si stipulino solo i rogiti. Scherziamo quasi sempre su questo, mentre c'è una gamma di attività che in questo momento sono sospese, che è estremamente eterogenea ed ampia. Notaio Rovede, intanto le chiedo l'ultimo atto, rogito a parto, che ha stipulato, qual è stato e quando? Ma è stato venerdì, è stato un normalissimo atto di compravendita, come avete fatto esempio voi, però avete ragione a dire che la gamma è piuttosto ampia. Pensiamo alle procure che gli imprenditori devono fare per stipulare atti all'estero in paesi che non sono in emergenza Covid. O pensiamo anche a un semplice testamento, perché è forte la sensazione di precarietà in questo momento. Tutti sanno che la malattia è dietro l'angolo e pensano a regolamentare i futuri assetti successori. Quindi anche il testamento, che di per sé sembrerebbe una cosa non urgente, diventa per le persone particolarmente importante e indifferibile. Ma ad esempio, ecco, adesso senza voler scatenare gli scongiuri giustamente da parte di tutti quanti, però è vero, magari ci può essere anche un problema di passaggio dell'attività, quindi magari non è un testamento ma è una donazione. Sono atti che giustificano o che si, due domande, scusi Roveda, faccio un po' di confusione. Si possono fare da remoto, cioè via digitale, oppure sono atti che giustificano il potersi recare anche in comune diverso dal proprio, se ad esempio si risiede in una regione zona rossa? Iniziamo dalla seconda domanda. C'è un po' di confusione, nel senso che naturalmente il DPCM non può regolare qualsiasi attività umana e quindi ci si rifà un concetto di indifferibilità, urgenza, necessità. A nostro avviso, a mio avviso, l'atto notarile è uno dei motivi per cui ci si può spostare da un comune all'altro. Anche un atto che sembra poco importante, la vendita di un box, magari può servire per pagare la cartella, la rottamazione Equitalia che è in scadenza tra pochi giorni. E quindi sì, ci si può spostare, però si ha anche notizie di persone che sono state sanzionate perché spostavano per un atto notarile e le autorità di pubblica sicurezza non l'hanno considerato motivo valido. Secondo me sbagliando. Quindi la prima risposta è sì, è un motivo sufficiente per spostarsi. La seconda è invece un po' più complicata, nel senso che è possibile fare assemblee anche importantissime di società quotate che deliberano fusione e aumenti di capitale totalmente in remoto, collegando tutti i partecipanti in remoto. Non è invece ancora possibile fare atti molto più semplici, quale per esempio le procure, che servirebbero in molti casi, perché non ci sono solo le persone che non si possono spostare, ma ci sono anche gli ammalati, le persone in quarantena, le persone in isolamento volontario, che non hanno la possibilità di spostarsi anche interpretando estensivamente la norma. E qui servirebbe qualcosa che per esempio in Francia è stata fatta pochissimi giorni fa, che consente al notaio di ricevere atti di conferimento di procura a distanza per poter consentire di svolgere quelle attività economiche che sono necessarie a far funzionare il paese. Ecco, se uno è in isolamento, scusami Deborah, perché ci arrivano anche una domanda di questo tipo, è in isolamento perché o ha il contratto il Covid oppure è stato a contatto stretto con una persona che ha avuto o che ha il Covid, e non può in alcun modo però uscire, cioè in questo caso deve diciamo così sottostare, e se ci fosse un impegno già preso per un atto notarile sarà una causa di forza maggiore, lo sposterà, mi immagino, tiro a indovinare, non voglio fare il notaio, avete già abbastanza grane, prego. Sì, è vero che probabilmente verrà considerata dai giudici causa di forza maggiore, ma magari c'è anche un venditore che aspetta come ossigeno il denaro che arriva da quella compravendita perché ha a sua volta dei debiti. Al di là dell'adempimento e inadempimento c'è proprio la necessità di far funzionare l'economia. Quindi è quanto mai urgente la possibilità di avere una riforma che ci consenta di stipulare procura a distanza. Deborah, quindi prego. Diciamo questa è, sì, è una, come dire, condizione necessaria che esula dal Covid, perché quello che stiamo vivendo in questo momento è chiaramente una condizione straordinaria, ma il tema della procura, come lei indicava, notaio, è qualcosa di più complessivo che serve anche in una situazione di totale normalità senza Covid, direi. Mi sbaglio? Serve tantissimo in situazioni di emergenza, poi se funziona non si vede perché non metterla a regime, ma in questo momento sono preoccupato proprio dalle situazioni di emergenza. Certo. Cioè, è difficile spiegare all'imprenditore che ha deliberato la fusione due giorni fa, complicatissima, che poi non può fare una procura per intervenire a un'udienza al suo funzionario. È veramente difficile spiegarlo. Ci certo. chiedono se ci si può spostare anche di regione. Lei aveva già risposto un pochino alla così fatto che per un atto notarile è un giustificato motivo, però anche non tutte le autorità di controllo la pensano allo stesso modo. Forse mi viene da dire, magari può dipendere anche dal tipo di atto che uno ha in corso? Sì, anche se è molto difficile sezionare l'urgenza, l'importanza, che ha un valore non solo oggettivo ma molto spesso soggettivo, cioè quello che non appare urgente per la generalità della persona concretamente può essere molto urgente per la persona che deve incassare dei soldi o che deve traslocare in una casa o che deve fare un'operazione con l'estero. C'è un caso, Deborah, di un ascoltatore, non so se poi riusciamo anche a prenderne la telefonata, che ci chiede, appunto, vuole procedere per rinuncia all'eredità. E mi viene in mente, intanto che cerchiamo di rintracciarlo, anche la questione che avevamo lasciato un po' lì delle donazioni, cioè magari qualcuno vuole così provvedere per tempo, di solito sono atti magari dai genitori ai figli, ecco, che si presentano più spesso in questo tipo. E peraltro mi pare di ricordare che il mese di dicembre, insomma novembre-dicembre, sono mesi di grande attività dal punto di vista dei riordini anche familiari presso gli studi notarili. È così, notaio Roveda? Sì, è così. Tradizionalmente il mese di dicembre è un mese molto caldo. Una volta si diceva anche perché si riuniscono le famiglie e queste riorganizzazioni di affetti, magari per figli che vivono all'estero. È molto più comodo farle quando tutti sono insieme, magari quest'anno questa urgenza, questa occasione non ci sarà, però dicembre di fare come se caldo. Allora Deborah, guarda, sono le 11:44 minuti e mancano 20 secondi al 45esimo, però secondo me... Procedi. Sì, l'arbitro a questo punto fischia il traffico. Sì, sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico! Due di denari. Diciamo che stamattina il grido di dolore lo stanno lanciando proprio i notai che sono in grande difficoltà a poter lavorare regolarmente per tutte le questioni legate naturalmente al blocco degli spostamenti, zona gialla, arancione, rossa. Chiaramente il movimento sul territorio nazionale è compromesso in questo momento e di conseguenza tante cose non si possono fare. Però notaio Roveda, stavo pensando, le banche lavorano regolarmente, quindi in teoria una persona può farsi fare un preventivo e l'erogazione di un mutuo. Anche le agenzie immobiliari si sono riattrezzate a lavorare in questo periodo e consentono per esempio visite virtuali negli immobili e comunque uno la casa magari la compra dopo aver esplorato tante opportunità a lungo. Quindi magari avendo teoricamente adesso tutto pronto, cioè la casa da comprare, mutuo erogato, l'ultimo miglio è proprio quello di finalizzare l'operazione di compravendita, prima con un compromesso, quindi con un preliminare di vendita e poi con un erogito finale. Quindi da quello che capisco è proprio l'ultimo miglio che non si può completare, nel senso che voi avete grossa difficoltà in questo senso pur avendo alle spalle tutto il resto del mondo che del mondo appunto relativo all'operazione di compravendita immobiliare che è regolarmente funzionante. No, io non drammatizzerei così la questione. La maggior parte dei rogiti possono essere fatti. c'è un'oggettiva difficoltà per chi si deve muovere da un comune all'altro o dalla regione all'altra, ma secondo me ne ha diritto. Il problema è quello di qualche sanzione che è stata ingiustamente irrogata, e il problema è soprattutto, l'urgenza è questa, relativa alle persone che sono positive. Stiamo parlando di un sessantesimo più o meno della popolazione italiana, e in isolamento fiduciario, perché ogni positivo si trascina qualche isolato. E quindi sono tante persone che in questo momento non si possono muovere da casa, non possono incontrare nessuno e quindi nemmeno possono vedere il notaio per circolare. C'è un ascoltatore, Deborah, che ci chiede, dovendosi spostare da una regione a un'altra regione, non specifica i colori, quali documenti può portare per giustificare lo spostamento, poiché deve recarsi a fare un atto notarile. La dizione dell'ascoltatore è molto generica, quindi non sappiamo se si tratta di un rogito o di un atto di altra natura. Quali potrebbero essere i documenti, insomma le prove da portare con sé in caso di controlli da parte delle autorità? Notaio Roveda. Ripeto, navighiamo un po' a vista, ma è opportuno farsi mandare dal notaio una lettera di convocazione che dica che è fissato per quel giorno, a quell'ora, in quel luogo, l'atto che la persona è chiamata a stipulare. Deborah, prego. C'era, Mauro, se ti ricordi, tra l'altro non sono più andata a controllare come la vicenda sia finita, sarà interessante andarla a verificare, ma chiedo anche su questo punto un commento generale al notaio Roveda, perché in questi mesi si sono anche bloccate inevitabilmente le aste immobiliari, e c'era un'ascoltatrice che qualche mese fa ci aveva chiesto aiuto perché aveva regolarmente acquistato una casa all'asta, ma chiaramente per il blocco dell'attività dei tribunali l'esecuzione, diciamo, del precedente proprietario non si era potuta completare, e di conseguenza questa signora aveva tirato fuori i soldi per comprare la casa all'asta, non poteva entrare nella titolarità di questa abitazione per il blocco dei tribunali, e lei continuava a pagare l'affitto nell'abitazione dove stava, per cui con tutto il disagio anche economico che ricadeva su questa famiglia. Questa situazione si è un pochino, notaio Roveda, alleggerita, o siamo ancora nella fase problematica di trasferimento della proprietà immobiliare per chi l'ha comprata, appunto, un'abitazione all'asta? Il dramma è che il trasferimento della proprietà questa signora l'ha avuto, quindi oltre che l'affitto probabilmente paga anche lì, e quindi oltre il danno la beffa. La situazione, esatto, è leggermente migliorata come tempi, ma siamo ancora in gravissimo ritardo, innestandosi su una situazione anche pre-Covid non proprio di velocità. Il notaio può recarsi al è un pochino migliorata, ma non ancora, diciamo, non siamo ancora nella, esatto, condizione evidentemente ottimale. C'è un ascoltatore, Emanuele, che sugli SMS ci scrive: il notaio può recarsi eventualmente al domicilio, ammettendo che nessuno sia contagiato, nessuno sia positivo al Covid, ma può esserci una visita domiciliare del notaio nel caso in cui la persona sia impossibilitata a spostarsi? Cioè la questione della limitazione di spostamenti vale anche al contrario: se non è il privato che può andare dal notaio, immagino che anche il contrario non possa avvenire. Il notaio normalmente si sposta e va al domicilio delle persone che sono impossibilitate a muoversi. Lo faceva quotidianamente in periodo pre-Covid e continua a farlo adesso, se si accede alla mia idea che l'atto notarile è un valido motivo per lo spostamento. Deborah, c'è un messaggio a cui vorrei rispondere per chiarire una cosa, anche se non forse era abbastanza palese, ma mi viene il sospetto che magari possiamo lasciare qualche zona d'ombra. Allora, non stiamo facendo con il notaio Roveda la rappresentazione delle difficoltà economiche della categoria notarile, che magari avrà anche le sue difficoltà economiche, ma stiamo dicendo una cosa diversa. Allora, gli atti notarili sono essenziali per il funzionamento dell'economia, tanto che appunto il repertorio degli atti notarili viene utilizzato anche per capire se c'è un po' di ripresa o se invece non c'è ripresa e c'è decrescita. E in questo senso che stiamo interrogando il notaio Roveda, chiedendo cosa possiamo fare o non fare tutti noi, cittadini, imprenditori, lavoratori autonomi, dipendenti, eccetera, che abbiamo bisogno del notaio quando dobbiamo fare una serie di atti. Insomma, abbiamo citato le successioni, le donazioni, il testamento, le procure, eccetera, eccetera. Quindi questo era un po' il senso. Mi spiace se magari non è stato così chiaro, ma forse adesso l'abbiamo chiarito meglio. Prego, Deborah. Ecco, bravo. Sì, avvocato. Notaio Roveda, molta parte dell'attività della pubblica amministrazione, anche se ancora con grandi aree di difficoltà, si è digitalizzata. Che cosa è possibile fare in termini appunto di attività notarile attraverso le procedure digitalizzate di oggi? Quindi diciamo, per esempio, in un atto di compravendita di una casa, torno sempre all'atto più semplice con il quale magari molti ascoltatori si possono chiaramente ritrovare, identificare in questo momento. Che cosa possiamo fare appunto grazie a molti passaggi che dal punto di vista digitale si sono resi più semplici? È chiaro che bisogna visitare una casa per scegliere quella che ci piace, interloquire magari con un funzionario bancario per l'individuazione del mutuo che fa il caso nostro, ma per esempio proprio nella relazione con il notaio, quanti passaggi è possibile saltare dal punto di vista fisico? Allora, tutta la fase di istruttoria e tutta la fase degli adempimenti è completamente digitalizzata. Quello che non è digitalizzato, forse neanche digitalizzabile, è il momento della conclusione del contratto, che richiede una fisicità davanti al notaio, che però è anche preordinata a limare gli ultimi aspetti della trattativa, nel senso che in sede di stipula poi certo, si negoziano le ultime clausole, si negoziano le modalità di pagamento del prezzo, e quindi una fisicità è in qualche modo ancora necessaria. Si può in ipotesi futura pensare a qualche forma di digitalizzazione anche di questa fase, ma in questo momento la fase della stipula è ancora analogica, chiamiamola. Ancora, certo. C'è un ascoltatore, Mauro, non so se hai visto tra gli SMS, sì, che ci chiede una delucidazione sul tema della procura. Vuoi leggerlo? Sì, chiede come fa a firmare la procura se non può spostarsi da casa. E allora come fa? Usa una PEC, una posta elettronica certificata? No, è un po' il grido di dolore che stiamo alzando, esatto, che stiamo lanciando in questo momento. In questo momento non è possibile, o lui va dal notaio o il notaio va da lui. Ma la procura a distanza, che servirebbe a risolvere i problemi delle persone in isolamento, oggi non è possibile farla. Dal 20 di novembre è possibile farla in Francia, è possibile farla in Belgio, è possibile farla in Brasile, in Canada, in altri paesi, ma in Italia ancora no. E speriamo che magari con i vari decreti ristori, insomma, o con la manovra, magari si ponga un rimedio anche a questo aspetto. Grazie ad Arrigo Roveda, notaio in Milano, una voce amica per Due di Denari. Deborah, noi torniamo domani, giusto? Ma ne parliamo domani del cashback, che ci stanno arrivando tante richieste di chiarimento? Ma sarà un piacere. A domani. Bene.